Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. In una delle settimane più difficili a memoria recente torniamo anche oggi per regalarvi un po' di evasione, proiettandovi in un futuro dal calibro internazionale, non appena il mondo riaprirà ovviamente i suoi confini. Parlare di mobilità in questo periodo non è semplice, ma restiamo convinti che resti uno degli ingredienti fondamentali per poter migliorarsi e migliorare anche il mondo. Giovani manager all'estero, questo è il tema della puntata odierna che ci regalerà le esperienze e consigli di un'amministratrice delegata under 40 al lavoro nella Gran Bretagna post Brexit. Come farsi largo nelle aziende in terra anglosassone, come strutturare al meglio il proprio curriculum, come cercare impiego oltremanica, tutti i temi che affronteremo insieme alla nostra testimone d'eccezione della settimana, una puntata insomma davvero imperdibile. L'appuntamento mensile con le segnalazioni di Francesca Barbieri del Sole 24 Ore aprirà la puntata insieme alle sue segnalazioni su opportunità formative in Europa e nel mondo. Il lavoro in Europa sarà al centro dell'appuntamento bimensile con Eures Italia, ricco anche oggi di dritte utili per trovare la vostra opportunità nel continente, mentre chiuderemo con un omaggio alle donne e in particolare alle madri che espatriano. Lo faremo parlando di un libro che affronta proprio le loro problematiche oltre confine. Tutto è pronto per la nostra partenza verso la Gran Bretagna in piena transizione verso l'uscita effettiva dall'Unione Europea. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci trasferisce virtualmente in Spagna per un interessante dato statistico. Hanno superato quota 300.000 gli italiani residenti nel paese iberico, più del doppio rispetto a 10 anni fa. Una comunità, spiega la Farnesina, ben integrata e concentrata in alcune aree specifiche: Barcellona e Catalunya, Madrid, Canarie, Baleari, Andalusia e Valencia. Con un'età media di 40 anni e un progressivo aumento dei connazionali di seconda generazione, cioè figli degli immigrati italiani nati nella penisola iberica. Toolbox. A Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utili a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, tornano i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo allora cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di borse di studio per la Germania. Il servizio tedesco per lo scambio accademico offre agevolazioni riservate ai candidati italiani, sia per frequentare corsi di laurea magistrale, sia per specializzarsi nella ricerca post laurea. Partiamo dalle borse per i corsi di laurea magistrale. Della durata di 1 o 2 anni, queste opportunità sono rivolte a studenti di tutti i corsi universitari, eccezion fatta per architettura e per le discipline artistiche, per cui è previsto un bando apposito. Non sono previsti limiti di età. Il candidato non deve aver conseguito il titolo di laurea triennale o a ciclo unico da più di 6 anni. Deve ottenere una certificazione linguistica secondo i criteri imposti dall'università in cui si è stati ammessi e presentare una lettera di referenze. La borsa di studio è di circa 850 euro mensili e comprende l'assicurazione sanitaria, il sussidio per il viaggio e un contributo una tantum per il sostegno allo studio. Ci sono poi le borse di ricerca di durata annuale, che vanno da 7 a 12 mesi presso università o centri di ricerca. Per potersi candidare a queste borse di ricerca è necessario avere una laurea magistrale o essere dottorandi presso università italiane o tedesche. Requisiti necessari sono aver conseguito il titolo magistrale da non più di 6 anni o aver intrapreso il dottorato da non più di 3. Il bando prevede 850 euro mensili per i laureati magistrali e 1.200 euro per i dottorandi. Oltre all'assicurazione sanitaria, ha un sussidio per il viaggio in Germania e ha un contributo a sostegno dei costi della ricerca. Ci sono infine borse per dottorati binazionali o in cotutela. Il programma è attivo per un massimo di 2 anni. Si possono candidare i ragazzi che non abbiano conseguito la laurea magistrale da oltre 6 anni e i dottorandi che abbiano intrapreso il proprio percorso da meno di 3. La borsa si compone di rate mensili da 1.200 euro per i mesi di soggiorno in Germania, assicurazione sanitaria, sussidio per il viaggio e contributo una tantum per la ricerca, nonché contribuzioni a favore dei 2 docenti supervisori. C'è inoltre la possibilità di fare richiesta per ulteriori fondi destinati a coprire il canone di affitto mensile e a sostegno dei familiari che viaggiano con il borsista. Tutte le informazioni a questo link internet www.dad.it. Il testimone. La testimone della settimana è una manager 37enne, attualmente amministratrice delegata per un gruppo collegato a una delle più note agenzie di viaggio online. Alessandra ci spiega oggi come fare a costruirsi un profilo di alto livello approdando oltremanica per lavorare in piena era Brexit. Buon pomeriggio Alessandra Di Lorenzo. Ciao. Laurea in lingue e tecniche della comunicazione a Milano, master in marketing alla Westminster Business School a Londra. La tua formazione, Alessandra, ha avuto una forte impronta internazionale fin dall'inizio. Le scuole elementari le hai frequentate a Londra, solo per fare un esempio, ma hai studiato anche in una miriade di altri paesi. Allora, ci puoi riassumere rapidamente dove? Sì, certo. Mio papà ha lavorato per 40 anni in Eni, quindi abbiamo seguito un po' il suo percorso. Da piccola ho vissuto nella Corea del Sud. Le scuole elementari tra Londra e la Scozia e poi le scuole medie in Nigeria per poi tornare a Londra con il master. E quale valore aggiunto hanno portato queste esperienze alla tua formazione? Sicuramente la lingua, perché parlo inglese da quando sono molto molto piccola, quindi un grossissimo vantaggio linguistico, ma soprattutto il modo di vedere il mondo e il modo di lavorare. Dopo il master la tua carriera spicca al volo, allora ci racconti in breve, Alessandra, quali sono state le principali tappe del tuo percorso professionale? Sì, certo, io ho iniziato più o meno 15 anni fa dopo il master qua a Londra e ho cambiato parecchi lavori. Ho avuto la possibilità di provare a lavorare in molte multinazionali, quindi ho lavorato per una startup all'inizio, subito dopo il master, poi sono entrata in Yahoo quando Yahoo era più importante di Google tanti anni fa. Dopodiché ho fatto esperienze in Nokia, in Vodafone, eBay e poi sono arrivata qua. C'è la ricerca, diciamo, della nuova esperienza. E la tua ascesa ti ha portato a ricoprire adesso l'incarico di amministratrice delegata presso una multinazionale del settore viaggi. Ci spieghi esattamente di cosa ti occupi? Sì, certo, sono responsabile di Forward, che è l'azienda di marketing parte del gruppo lastminute.com, di cui fa parte anche Vola Gratis in Italia. E allora chi meglio di te, Alessandra, può fornirci consigli preziosi su come affrontare un percorso di carriera nel marketing oltremanica o più in generale in Europa? Allora, perché per cominciare la Gran Bretagna è il luogo dove essere per lavorare nel marketing digitale? Il Regno Unito è il secondo mercato dopo l'America per gli investimenti nel settore di marketing e quindi in più particolare nel digitale. Ovviamente l'industria del marketing è molto sviluppata e sicuramente più matura qua che nel resto d'Europa. Il resto dell'Europa ha un approccio un po' più conservativo rispetto alla comunicazione e al marketing, quindi qua sicuramente aiutati anche dalla lingua che è un po' più snella, il marketing è veramente molto, molto forte, quindi è il posto, it's the place to be, il posto dove vogliamo essere se vogliamo fare marketing digitale. E quale formazione consigli di avere per poter contare su opportunità concrete di lavoro in Gran Bretagna? Ma la verità è che i profili, quelli tradizionali, sono un po' difficili da inquadrare nel digitale, quindi quello che noi facciamo soprattutto quando assumiamo ragazzi giovani è cerchiamo l'attitudine giusta, sicuramente le competenze linguistiche e l'attitudine giusta, quindi spesso nel digitale assumiamo persone che magari hanno lauree umanistiche e che magari entrano come stagisti. Conoscenza dell'inglese e approcci attitudinali completano il profilo del candidato ideale, in che modo? Sicuramente il digitale è un settore che sta cambiando tantissimo, quindi assumere persone che hanno già esperienza nel digitale spesso è molto difficile, soprattutto se pensiamo a profili come social media manager o profili nel social influencer, cose un po' più moderne di cui ci occupiamo. E quindi è super importante che le persone che sono interessate a entrare nel settore abbiano la testa giusta e la voglia e la motivazione di provare e imparare mentre insieme, insomma. E allora, come preparare un buon curriculum per sbarcare in Gran Bretagna, magari nel settore marketing digitale? Certo, purtroppo, meno male, il formato europeo non funziona, è un formato troppo lungo e troppo didascalico, molto molto europeo. Il CV qua sempre inizia con un breve paragrafo descrittivo, quindi su chi siamo e cosa vogliamo fare. Dopo arrivano le esperienze e sicuramente il titolo di studio alla fine. Tra l'altro la fotografia non è richiesta né l'età, perché qua ci sono temi di potenziale discriminazione, non vogliono che non è necessario, ecco, dare questi dettagli anagrafici. E poi sicuramente il CV non dovrebbe superare, il curriculum non dovrebbe superare una pagina di lunghezza, soprattutto se si è neolaureati. Quindi è super importante essere precisi con un curriculum pulito e una formattazione chiara. E il curriculum tra l'altro vive sia sul documento Word o PDF che su LinkedIn, importantissimo LinkedIn, che è il curriculum digitale. A quale tipo di colloquio occorre prepararsi? Dove non sbagliare? Allora, i colloqui adesso sono, il colloquio moderno è un po' diverso da quello che era prima. Prima di arrivare tra l'altro al colloquio si deve tenere in conto che la preselezione viene fatta anche da macchine. Quindi è importante che nel curriculum ci siano le parole chiave corrette e relative al ruolo che si sta facendo, che si sta cercando di ricoprire, quindi all'application. Super importante. Quando si arriva al colloquio è importante calibrare il modo in cui ci si veste e il linguaggio per il tipo di lavoro che si sta cercando, perché andare in giacca e cravatta da Facebook non è una buona idea. Hai dei consigli di canali web da consultare per trovare opportunità nel marketing oltremanica? LinkedIn, o come i nostri colleghi italiani dicono LinkedIn. Perché ormai il portale che conosciamo tutti, che è il portale social del B2B, del business, è il posto dove vengono postate tutte la maggior parte delle opportunità che ci sono. Quindi super importante che il profilo LinkedIn sia coerente con il CV, quindi con il curriculum, e che sia pulito e organizzato. E non solo, perché il tema di oggi, la difficoltà dei ragazzi che entrano nel mondo del lavoro di oggi è anche il social, perché spesso i datori di lavoro vanno a vedere anche le pagine aperte di Instagram e di Facebook, quindi i profili social devono essere puliti, organizzati e possibilmente senza troppe fotografie di feste o cose strane. Londra è the place to be, oppure ci sono anche altre città interessanti per lavorare nel marketing sia nel resto della Gran Bretagna che in Europa? Sicuramente Londra è, anche per una questione linguistica, l'inglese si presta proprio al marketing, e così è una lingua più speech, più di impatto. Berlino sta facendo delle cose interessanti, sono sempre stati molto creativi. E poi Milano nel piccolo sta veramente evolvendosi in modo molto interessante. Beh, meno male. Allora, Brexit resta ovviamente un grande punto di domanda, ma qualche certezza cominciamo ad averla. Dal prossimo anno occorrerà essere qualificati e avere uno stipendio abbastanza elevato per lavorare oltre manica. Il settore marketing digitale, secondo te, Alessandra, potrà offrire queste condizioni? Ma chi lo sa, sicuramente gli stipendi nel digitale sono buoni, soprattutto in UK, ma anche nel resto d'Europa, perché comunque sono profili nuovi e quindi le aziende ci sono, diciamo, più richieste di lavoro che persone che hanno le competenze necessarie. Quindi gli stipendi, diciamo, per questa situazione di mercato sono abbastanza buoni. Poi Brexit, chi lo sa, è un'incognita anche per gli inglesi. Vita pratica a Londra, uno stato nello stato, è la capitale britannica, occorre arrivare chiaramente preparati. Quali siti consigli per trovare casa? Allora, ce ne sono parecchi, quelli principali sono rightmove.co.uk e Zoopla con la doppia O. E poi c'è un altro sito che si chiama spareroom.com, che principalmente è per i ragazzi che cercano un appartamento o una stanza in condivisione, perché teniamo conto che un appartamento in centro a Londra, un monolocale in centro a Londra può costare più di 1.500 sterline al mese. Quindi è ovvio che un neolaureato, un ragazzo che cerca che sta iniziando a Londra, probabilmente cerca una stanza in condivisione, come ho fatto io 15 anni fa. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchesi e dal 3 aprile vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia. Ogni venerdì in podcast su radio24.it. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Alessandra Di Lorenzo, 37enne manager e amministratrice delegata in Gran Bretagna. Una formazione internazionale fin da bambina le ha permesso di affermarsi nel mondo aziendale oltre Manica e oggi è qui a spiegarci come farsi strada nel mondo del marketing digitale nel Regno Unito post-Brexit, con tantissimi, come sempre, consigli utili. Riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. Quali affitti attendersi invece, Alessandra, e in quali zone della capitale è meglio cercare per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo? Allora, Londra ha tanti centri, quindi parlare del centro di Londra non ha tanto senso, perché c'è il West End, poi c'è Shoreditch, quindi in realtà c'è una zona 1 che è la zona super centrale, che è la più cara, è ovvio. Ci sono alcune zone che sono magari zone 2, zone 3 che sono buone, che sono collegate bene con i mezzi. Faccio degli esempi: al sud ci sono zone come Battersea e Clapham che sono interessanti, oppure al nord ci sono zone come Islington, Holloway e Finchley che sono anche lì collegate molto bene con i mezzi, ma incominciano ad essere in zone 2 e 3, quindi un po' meno care, ecco. In un flash, Alessandra, questione conto in banca va fatto subito, perché? Per ovvie ragioni, se non hai il conto in banca non puoi veramente girare. La cosa interessante rispetto a quando sono arrivata qua è che ci sono tante banche virtuali adesso, tipo Revolut, tipo Starling Bank, tipo Monzo, N26 anche in Italia, quindi sono sicuramente da considerare per i ragazzi che arrivano qua, perché sono un po' più snelle per aprire il conto. Se no ci sono quelle tradizionali, HSBC, Lloyds, e queste di solito però chiedono un garante. E allora, Alessandra, ringraziandoti per questa miriade, davvero miriade di consigli che ci hai regalato, ci hai offerto oggi, ti faccio l'ultima domanda. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Idee chiare e tanta forza di volontà. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Bernadette Greco di Eures Italia. Salve, oggi vi parlerò delle offerte disponibili dal servizio Eures Italia e nel settore turistico alberghiero. Sappiate che ogni anno si svolge una grande fiera del lavoro sulla piattaforma partner di Eures, European Job Days Online, dal nome SIS The Summer. Si è già svolta l'edizione SIS The Summer 2020 e nonostante si sia già svolta il 4 marzo, tutte le offerte disponibili che vanno dal commis di cucina all'hotel manager e saranno ancora attive per ben 2 mesi, quindi avete tempo di candidarvi. E come candidarvi? Semplicemente andando su questa piattaforma www.europeanjobdaysonline, events, past events, perché è un evento che si è appena svolto, SIS The Summer con Eures 20, quindi browse exhibitors e potrete vedere tutti i datori di lavoro presenti con le loro offerte. E le offerte che provengono da ben 8 paesi del sud Europa, che tradizionalmente sono mete turistiche come Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Slovenia, Cipro, Grecia e Italia. Oltre a questa vorrei ricordarvi anche l'offerta disponibile con il Robinson Club, struttura turistico alberghiera di pregio del gruppo TUI Blu, che assume personale per la sede per il Robinson Club tedesco, che si trova nella regione dei Laghi, Frisensee, e i profili professionali cercati sono vari, che vanno dal commis di cucina al receptionist, e pertanto anche i requisiti e le richieste sono differenti. Un percorso formativo o nella formazione professionale come cuoco, o un percorso invece con una laurea in lingue straniere ed altro, come ad esempio per il receptionist o in discipline motorie per il fitness trainer. Tutte queste informazioni sono comunque disponibili sul sito Ampal Eures e sulla pagina Facebook Eures Italy. Inoltre, proprio per italiani, vorrei ricordare le offerte che troverete sempre sulla piattaforma SIS The Summer 2020 del Portogallo, che sono specifiche nel settore customer service per madrelingua italiani e sono customer service applicate al settore turistico, quindi per grandi nomi quali Airbnb ed altro, sempre disponibili su questa piattaforma. Per qualsiasi informazione potete mandare un'email a eurespuglia@regione.puglia.it. Grazie e arrivederci. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi parliamo di una recente indagine condotta dal sito mammedicervelliinfuga.com che ha svolto una ricerca sulle relazioni di coppia dei nostri giovani e delle nostre giovani all'estero, scoprendo come vada ricercata nell'impossibilità del partner o della partner nel trovare lavoro nella penisola la ragione del mancato rientro di molti nostri talenti oltre confine. Brunella Rallo, fondatrice di Mamme di Cervelli in Fuga. All'interno di questa indagine abbiamo estrapolato, messo in evidenza, un dato particolare che è quello della diffusione dell'isogamia tra le coppie dei giovani italiani all'estero. Abbiamo analizzato che il 43% dei giovani italiani all'estero vive una relazione di coppia, sposati o conviventi. Tra questo 43% dunque che ha una relazione di coppia, il 50% ha un partner italiano, ma l'altro 50% ha un partner estero. Le quote sono più o meno divise alla pari tra partner del paese nativo, dove la coppia risiede attualmente, e partner originario di un paese terzo rispetto alla residenza della coppia. Questo dato è particolarmente interessante se noi lo riferiamo, lo proiettiamo, sia sulla vita della famiglia transnazionale in genere, ma soprattutto se lo proiettiamo in relazione alle ipotesi e alle possibilità di rientro dei giovani italiani dall'estero in Italia. Perché ovviamente si pone un problema: se anche un ragazzo o una ragazza ha l'opportunità o il desiderio di tornare in Italia, questa opportunità viene ostacolata o bloccata dalle difficoltà con cui il partner può anch'esso tornare in Italia. E partendo da questo dato, voi avete anche, come mammecervelliinfuga.com, ideato, pensato e lanciato una proposta. Quale? Allora, noi ci siamo soffermati, abbiamo fatto un piccolo approfondimento su alcuni meccanismi che esistono soprattutto nel mondo anglosassone. È il cosiddetto spousal hiring, diffuso prevalentemente in ambito accademico, si riferisce ad uno tipo di offerta lavorativa che viene proposta a un candidato e contemporaneamente viene estesa anche al suo partner nella stessa istituzione, anche se con un ruolo diverso. Ora, questo è un meccanismo che in Italia non esiste. Noi insomma pensiamo che questo tipo di meccanismo possa essere lanciato come una proposta pilota soprattutto dall'industria privata, dal settore privato, che potrebbe essere più libero, più elastico nei confronti, diciamo, di queste procedure per l'immigrazione, e sicuramente potrebbe, diciamo, giovarsi sia delle competenze di un giovane italiano emigrato, ma anche delle competenze di uno straniero che viene in Italia, e quindi mettere su scala, diciamo, nazionale una brain circulation. E di questo tema si parlerà nel corso del prossimo Festival della Cultura del Lavoro Nobilità, in programma a settembre a Bologna. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24 sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Ciò vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia e soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile, scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email, e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, sperando che nel frattempo sia tornata un po' della nostra amata mobilità. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.